Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 con Personal Best, il programma dedicato a chi ama correre ma non solo, e ben ritrovata a Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno. Oggi, a grande richiesta, come si dice, è tornata con noi la biologa nutrizionista Francesca Di Riu. Bentornata. Grazie, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Francesca, come va con il triathlon? Benissimo. Com'è andato l'ultimo, dai? No, l'ultimo è andato bene, il problema è il prossimo, però staremo a vedere. Ok, allora è meglio parlare... Ho qualche problemino ultimamente. Sorvoliamo. Sugli infortuni, dai. Faremo un'altra puntata su quello. Allora, meglio parlare dell'argomento di oggi, e siamo in autunno, infatti è un periodo caldo per chi corre perché è denso di gare, ma è anche un periodo in cui il cambio di stagione si fa sentire. Le mezze stagioni non esistono più, dicono, ma per chi corre invece esistono ancora. In che modo possiamo affrontare questo periodo dell'anno, Francesca? Esatto, questo secondo me è un bellissimo periodo perché si fanno un sacco di nuovi progetti, no? Ed è anche bello per chi, dopo che ha passato l'estate a correre al caldo, adesso riprende un po' a respirare. Però è anche vero che in questo periodo, che è un periodo di transizione, ci sono un sacco di alti e bassi, cioè si passa dal caldo al freddo, e infatti è più probabile soffrire di anche un banale raffreddore, comunque influenza, tosse, eccetera, quindi di prendersi qualche malannino di stagione. In più aggiungiamo il fatto che chi fa attività fisica ovviamente intensa è più a rischio, perché questo tipo di attività stressa e mette, diciamo, sotto pressione il nostro sistema immunitario. Però con qualche piccolo accorgimento possiamo cercare di prevenire questi problemi. Prima di tutto, come sempre, però in questa fase è importantissimo assumere una grande quantità di frutta e verdura. Quella di stagione ci viene in aiuto, quindi adesso troviamo, non so, l'uva, i fichi, i cachi e anche ortaggi come, non so, la zucca, che sono colorati, perché contengono tante vitamine e minerali che ci aiutano a rafforzare il nostro sistema immunitario. Quindi le famose 5 porzioni al giorno, anche in forma di, non so, centrifughe, gli estratti che adesso vanno tanto di moda, che permettono di assimilare di più queste vitamine e questi minerali. Un altro consiglio importante è quello di non sottovalutare l'idratazione, perché in questo momento si suda di meno, si ha quindi meno sete e si tende a bere di meno. Quindi sappiamo tutti che dobbiamo bere magari subito prima o durante gli allenamenti e subito dopo, però tendiamo magari a non bere negli altri momenti della giornata. Invece dobbiamo ricordarci di farlo, questo perché tutte le nostre cellule hanno bisogno di una costante idratazione per essere funzionali. Quindi anche se l'acqua non ha, diciamo, un ruolo energetico diretto, ha questo importante ruolo metabolico, e questo è valido anche per il sistema immunitario, quindi per le cellule del sistema immunitario. Altra cosa importante, anche qui rischiamo di essere ripetitivi, è il recupero. Quindi mai sottovalutare quella fase che segue l'allenamento. In termini di alimentazione, zuccheri e proteine, e in questo caso gli zuccheri ci possono arrivare ancora una volta da quelli della frutta autunnale, no? La frutta come l'uva e i cachi sono molto zuccherini. Si ha spesso paura di mangiare una frutta così zuccherina, però... Ma ci aiutano quindi a prevenire anche i mali di stagione, questi alimenti? Questo perché sono ricchi di antiossidanti. Pensiamo per esempio all'uva nera, che è ricca di antociani, quindi queste molecole antiossidanti, o anche i cachi, o anche il melograno, per esempio, che troviamo adesso, no? Il succo di melograno. Quindi quando uno finisce di correre, appunto un allenamento, si può, cosa prende? Una porzione di frutta? Una bella porzione di frutta, sì. Ah. Magari ovviamente un po' di proteine, però in questo caso parliamo degli zuccheri, parliamo di vitamine e minerali, quindi una bella porzione di frutta con dello yogurt potrebbe andare benissimo. E il riposo, anche il riposo è fondamentale. Esatto. In estate molto probabilmente abbiamo fatto le ore piccole, abbiamo dormito di meno anche per il caldo, però questo è il momento di dormire un po' di più. Quindi oltre che il riposo tra un allenamento e l'altro, anche la notte. Quindi cerchiamo di dormire per combattere anche questo stress da rientro, perché diciamocelo, è proprio uno stress anche positivo, però è sempre uno stress. Sì, perché si dice sempre, almeno per me, un po' l'anno inizia a settembre, non so, un po', no? Sì, esatto. Perché non, è difficile che inizi a gennaio, ma inizia a settembre, quindi appunto, come dicevi tu, tutti i buoni propositi, e poi hai un po', non so, l'energia di affrontare, no? Poi adesso iniziano anche un sacco di gare. Sì, infatti, molti arrivano magari anche un po', diciamo, sovraccarichi dall'allenamento, non in modo, insomma, negativo, però comunque sono provati dai chilometri percorsi, perché in questo momento, tra ottobre e novembre, insomma, ci sarà la maratona di Venezia, la maratona di Firenze, la maratona di Verona, insomma, molte, molte cose. Poi, al di là della maratona, ci sono molte mezze maratone e il resto, per cui la gente arriva un po' preparata. E quindi, in che modo possiamo, insomma, vincere anche con l'alimentazione questo sovraccarico di chilometri che abbiamo sulle gambe? Beh, quello sempre con un'alimentazione equilibrata, quindi con l'alimentazione, soprattutto con il fabbisogno, cercando di colmare il nostro fabbisogno energetico. Però io dico sempre questo, quando mi chiedono, non so, cosa posso fare adesso, che manca pochissimo alla gara, io dico sempre che i miracoli all'ultimo momento non si possono fare, no? Quello che potevi fare l'hai fatto, adesso devi cercare di non farti del male, quindi sia da un punto di vista alimentare, le famose diete drastiche, non so, devo perdere 2 chili all'ultimo momento, oppure la famosa settimana pre-gara, no? Che cosa devo mangiare, faccio questo protocollo, scarico. Io dico sempre, lascia perdere, quello che hai fatto l'hai fatto, cerca di curare magari alcuni altri aspetti che invece spesso vengono sottovalutati, non so, la settimana pre-gara sicuramente è importante fare il famoso carbo load, quindi lo si può fare qualche giorno prima senza necessariamente caricarsi in maniera, possiamo dire, massiccia di carboidrati. E come lo facciamo in pratica questo carbo load? La quantità di carboidrati dovrebbe essere, diciamo, studiata in base al peso corporeo e anche, dico sempre, alla quantità di carboidrati abituale. Quindi è perfettamente inutile ingerire una grande quantità di carboidrati, per esempio il famoso 2 etti e mezzo di pasta la sera prima della gara, se normalmente se ne mangiano 60 grammi. Quindi si rischia di riempirsi un po' troppo, di avere la digestione lenta, di avere poi problemi intestinali. Okay. Esattamente. Quindi magari è più importante fare quei due giorni prima della gara, aumentare leggermente, senza esagerare, la quota di carboidrati, quindi aumentare le porzioni di riso, pasta, magari mangiare, non so, dei cereali, un po' più di pane, marmellata, senza esagerare, facendo dei piccoli passi distribuiti durante la giornata, senza, diciamo, caricare troppo la digestione. No? Ma solo per le gare oltre 10 chilometri o consigli anche? Ma allora dipende sicuramente dalla durata della gara, quindi immagino se la gara dura un'ora e mezzo è perfettamente inutile fare il carbo load. Ma il carbo load è, adesso un attimo un passo indietro, dobbiamo passare un periodo in cui non mangiamo carboidrati e poi iniziamo a mangiarli, o comunque noi continuiamo con la nostra alimentazione normale e incrementiamo un po'? E io consiglio sempre di seguire l'alimentazione normale e incrementare un po', sì, onde evitare stress, perché lo scarico totale potrebbe dar fastidio. Poi è, diciamo, scientificamente provato che funziona, ma non a tutti, diciamo, va bene. Meglio non sperimentare, quindi. Allora, si può sperimentare, quindi va benissimo fare delle prove. Però io non lo consiglierei così a tutti a tappeto. Sì, sì. Cioè, puoi provare e magari trovare la tua strategia. Io lo feci quando ho fatto una maratona, avevo fatto il mercoledì, mi sembra, solo proteine, completamente dalla colazione, ma proprio niente di carboidrati, e poi dopo ho fatto il carico di carboidrati, ma io non ho avuto nessun beneficio, almeno non ricordo grossi benefici. Poi magari è un famoso protocollo svedese che si conosce dagli anni 60, antichissimo, e adesso è stato un po' superato, un po' sfatato, però c'è chi lo utilizza, si sente bene, e anche l'abitudine, cioè il fatto di fare una cosa un po' un rito, no? Che per alcuni è importante, anche se magari non sempre funziona. Molto più psicologicamente, sì, magari, forse sì. Ci aiuta. No, è scientificamente provato che se lo si fa bene funziona, nel senso che aumenta la quantità di glicogeno che viene immagazzinata a livello muscolare. Però non lo consiglierei a tutti. Assolutamente. E quindi parlavamo prima anche di gare un po' più corte, quindi 10 km o una mezza maratona, dobbiamo pensarlo in modo diverso rispetto a una maratona, quindi non abbiamo la necessità di caricarci di carboidrati la sera prima o durante la colazione. Assolutamente, assolutamente. Poi secondo me l'errore che spesso si fa è quello di mangiare solo carboidrati, quindi quella piattone di pasta la sera prima, che poi fa venire anche un gran sonno, carica molto lo stomaco, quindi la digestione, e anche la colazione, no? Quindi grandi quantità di pane, marmellata, che in realtà possono anche essere causa di cali energetici se la gara segue dopo diverse ore. Quindi il pasto bilanciato secondo me è sempre vincente, sia la cena, quindi la sera prima, sia la mattina, quindi un pochino di proteine, sempre pochi grassi perché sono i più indigesti, però comunque una piccola quota di proteica io ce la metterei sempre, quindi può essere una carne bianca la sera prima o del pesce se gradito, oppure anche al mattino mettere un po' di proteine, è sempre una valida scelta. Tipo uno yogurt o il toast, sì, così? Sì, ma anche esatto, il toast col prosciutto per esempio. Quindi noi sappiamo invece che riusciamo a caricare il nostro corpo di circa 2000 calorie, no? Con i carboidrati e tutto. E abbiamo bisogno, quando facciamo soprattutto una maratona, di integrare quello che manca da quelle 2000 calorie, forse alle 3000 che consumeremo per la maratona. In che modo integriamo durante... Sono falsi miti che sto raccontando o no? No. Non sono falsi miti, però... Il fatto del numero, a me non piace parlare di calorie. Ah, non però okay. Non credo più tanto nelle calorie. Ah, in cosa credi? Nel potere dei nutrienti singoli, più proteine, ah, okay, carboidrati, grassi. Era per arrivare a capire come integrare durante la corsa l'alimentazione che ci servirà per arrivare in fondo. Sì, allora la prima cosa, secondo me importantissima, è che ognuno dovrebbe sperimentare la sua strategia di integrazione. Quindi si parte da basi scientifiche, quindi farsi consigliare da un esperto, o anche informarsi, leggere dei libri o cercare insomma sul web notizie insomma un po' scientifiche ovviamente, perché si trova sempre di tutto. Però durante la maratona si devono integrare gli zuccheri, perché si sa che la performance è strettamente dipendente proprio dalla quantità di zuccheri che noi riusciamo a introdurre, perché a un certo punto le riserve del glicogeno muscolare si esauriscono, quindi noi dobbiamo integrarle. Questi zuccheri dovranno essere assimilabili abbastanza facilmente in modo da arrivare presto in muscoli e digeribili. Quindi ogni quanto, che tipo di integratori, dipende molto da ognuno di noi, quindi il tipo di gel, il sapore, dopo quanto tempo, quindi qualcuno magari inizia l'integrazione subito, quindi subito prima della partenza, un gel poi dopo la prima ora si inizia a integrare ogni 40 minuti o ogni ora, è molto dipendente dalla tolleranza del singolo. Cioè, quindi consigli anche di provarli, cioè quando fai il lungo di provarli. Sì, quello è il primo consiglio. Quindi quando si fanno gli allenamenti, provare anche la colazione. Quindi la colazione del giorno della maratona è sempre meglio sperimentarla prima e provare l'integrazione in allenamento. Ma c'è un'alternativa al gel? Certo, ci sono delle soluzioni liquide di zuccheri e sali. Okay, ci sono anche delle barrette energetiche, però in genere chi corre durante la corsa non mangia la barretta, ecco, ma va più sul gel o sulle soluzioni liquide. Io preferisco sempre mangiare dei paninetti così, no? Anche però è maratona. Durante la maratona, durante è una molto gara, difficile, se sì, devi fare prestazionale poi. Esatto, esattamente. I cibi solidi si fermano un po' nello stomaco. Sì, se si fanno delle gare molto lunghe, delle ultramaratone, degli ultra trail, allora sì, inizia a mangiare anche alimenti solidi e a integrare anche le proteine in quel caso. Quello che succede nel ciclismo, diciamo, anche, no? Esatto, anche nel ciclismo, sì. Sì, nell'alpinismo, quindi in tutti gli sport di resistenza e anche di lunga durata. Grazie a Francesca De Riu. Grazie a voi. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.